ci sono anche oggi, mercoledì 29 maggio, 15:16, rigorosamente in diretta su CRM Più Radio all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente in mia compagnia sino alle 17 circa, minuto più, minuto meno. E allora io vi do subito i numeri per potermi raggiungere per le vostre dediche, le vostre richieste, o anche perché no, per farmi un semplice saluto. Beh, il 335 56 37 251 e ancora lo 0921 92 32 92. Vi ricordo il nostro sito che è il www.crmepiradio.it oppure ancora dal nostro portale Facebook. E ricordo che se ancora non siete tra i nostri contatti, semplice, entrate su Facebook, scrivete CRM Più Radio e andate a cliccare mi piace, così anche voi entrerete a far parte della nostra grande famigliola. Che dite? Cominciamo? Sì, io direi di cominciare. Prima si comincia, insomma, chi comincia è a metà dell'opera, una cosa del genere. Sì, credo di sì. La notte porta via il dolore, mi accompagna questa musica, mi muovo col tuo odore, bello come chi non se lo immagina, aspetta qui e lasciami fare. Spengo ad una anche le stelle, al buio sottovoce si dicono le cose più profonde di io. Mi sento bella come non mai, come questo sole che ci illumina. Con i tuoi occhi, le mie fragilità, rivivo nei tuoi sensi le voglie e la paura, l'istinto di chi poi non se lo immagina, la bellezza di chi ride e volta pagina. E conservo ad una anche le stelle, le tengo fra le mani, le conto sulla pelle, e bocca contro bocca, e sono l'unica sotto questo cielo che ci illumina. Amami come la terra, la pioggia d'estate. Amami come se fossi la luce di un faro nel mare. Amami senza un domani, senza farsi del male. C'è solo il vento e porta via l'amore, e tutto quello che resta sono sogni incollati fino a dentro le ossa, e abbiamo appeso le ali, viaggiamo dentro ai ricordi e poi restiamo da soli. Ma amami e dammi le mani, le mani, le mani, le mani. Su CRM Più Radio, Semplicemente Insieme con Geraldina Turdo. Dance, yes. Next, dance, yes. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yay. I'm an old dirty dog all day. No way, Jose. You could only go one way. I mean, money. You should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this. Nobody knows what I'm feeling. beautiful woman. Modern day Hugh Hef, yes. Playboy to the death, yes. Is he really worldwide, yes. Mommy, let me open your treasure chest. Play dates, we play mates. The king is snatching queens, checkmate. What you think? It's a rumor, I'm really out of this world. Moon, Luna, make women comfortable, call me Bloomer. Can't even show love, cause they'll sue ya. But I tell them hallelujah, have a blessed day. So ahead of myself, every day's yesterday. Want the recipe? It's real simple. A little bit of holy, it's your open sesame. Now dreams, yes, love, next. Dreams, yes, love, next. This would be a perfect love. He'd be together then. Only got just one life inside love. Who cares what they gonna say? I wanna dance in love and dance again. I wanna dance in love and dance again. Beh, da pop star, da attrice, adesso anche imprenditrice, la bella 43enne ha lanciato una nuova linea di telefoni cellulari chiamata Viva Mobile, un prodotto diretto alla comunità ispanica degli Stati Uniti, creato in collaborazione con il gigante Verizon. Il marchio appartiene in maggioranza alla Lopez, che è anche il direttore creativo del nuovo business presentato a Las Vegas. Per ora i Viva Mobile possono essere acquistati sul sito online o con un'applicazione su Facebook, ma presso negozi specializzati apriranno a New York, Los Angeles e Miami. Nei nuovi cellulari tutto sarà bilingue, quindi inglese e spagnolo, e i telefonini disponibili includeranno iPhone, Galaxy e BlackBerry. E brava la nostra Jennifer Lopez, quindi pop star, attrice, adesso anche imprenditrice. Brava, brava, una donna in carriera, sempre con tante risorse questa donna. Grande, grande. E noi continuiamo sempre con la bella musica, siete sempre in mia compagnia. Ti ho detto delle cose che non avrei voluto dire. E a farti così male mi sono fatta male. Ma ho spinto l'acceleratore, il tempo di una sigaretta. Mi si è bruciato tutto quanto. È più facile incolparsi che trovare una soluzione. La giusta mediazione. Ciao, sono io. Come stai? E ti amo ancora e ti odio più che mai. Sei ancora tu, quello sempre bambino. Non ti riconoscerei, eppure so che scoverei il tuo profumo ad occhi chiusi. Tra saprei, ora ritorno come niente e ti pretendo in un istante. Ti ho fatto una promessa che non riesco a mantenere. Mi hai detto facci piano e invece già ti amo. Ne sto correndo in controsenso. Questione di punti di vista, la vita è una partita a poker. C'è chi punta ad ogni mano e chi invece non crede più a niente. Diventa indifferente. Ciao, sono io. Come stai? Ti amo ancora e ti odio più che mai. Sì. dopo 11 dischi di platino, la seconda vittoria di Amici e dopo quasi un anno di intenso lavoro in studio, esce a settembre il nuovo disco di Alessandra Amoroso, che vedrà una collaborazione speciale. La produzione artistica dell'album, infatti, è firmata dal grande Tiziano Ferro, che racconta così questo inedito sodalizio. Dice: lavorare in studio con Alessandra si sta rivelando un'esperienza estremamente intensa e stimolante. E ancora dice: sto imparando a conoscere una ragazza che cresce di giorno in giorno come cantante e come donna. E per me, abituato a produrre album di esordienti, vuol dire mettersi in gioco e a confronto per la prima volta con il progetto di un'artista già molto popolare e tanto amata. Conclude il grande Tiziano Ferro, ancora dice: è un bellissimo quindi percorso sia per lei che per me. Mentre Alessandra risponde che per lei, diciamo, lavorare con un grande come Tiziano Ferro è una cosa meravigliosa, ha scoperto nuove sfumature del suo carattere, della sua voce, sfumature che addirittura non conoscevo, e ho cercato di impegnarmi al massimo anche in questo lavoro, dando tutta me stessa, quindi lacrime, gioia, tormenti della vita che sono riuscita a sfogare attraverso la musica. E ancora dice: spero che questo arrivi al mio pubblico, perché la loro parola per me è fondamentale. Tiziano quindi è una persona importante che ringrazierò all'infinito. Beh, bello questo sodalizio musicale tra l'Amoroso e Tiziano Ferro, quindi vedremo, attenderemo con ansia quindi l'uscita di questo disco, di questo album, quindi che vede la produzione artistica appunto del grande cantautore italiano Tiziano Ferro. Bene, bene, complimentoni a entrambi e un grande in bocca al lupo. Direi, due grandi artisti come loro se lo meritano proprio. What goes around comes back around. Hey, my baby. I say what goes around comes back around. Hey, my baby. What goes around comes back around. There was a time I thought that you did everything right. No lies, no wrong. Now con sé. Beh, piccolo fuori programma per la pop star durante il concerto di Copenaghen. Beh, nel momento in cui si è avvicinata ai fan per cantare con loro ritornello di un suo pezzo, beh, un ammiratore particolarmente esagitato le ha appioppato un sonoro schiaffo sul lato B. Aia! Una sculacciata irriverente e poco gradita dalla pop star. Beh, direi che lo ha rimproverato duramente dal palco. Un ordine però caduto nel vuoto, visto che la security non ha provveduto a cacciarlo e il molestatore ha continuato a guardarsi tranquillamente lo spettacolo fino alla fine. Ah, mannaggia, questi fan che ogni tanto si prendono così l'iniziativa. Questi sono i rischi del mestiere, cara Beyoncé. Mannaggia, speriamo che non succeda nuovamente. Non si fanno queste cose, capito? Direi. E noi continuiamo su questa canzone delle vibrazioni dedicata a te, Fabio, la dedica alla sua Antonella. Sai, certe volte accade che ci sia bisogno di andare via e lasciare tutto al fato, fare come un equilibrista che sul mondo sfida il crollo delle sue capacità. Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia. Sei immensamente Giulia, il tuo nome è come musica, mi riempie e non mi stanca mai, dedicato solo a te. Su CRM di Radio, semplicemente insieme con Geraldina Turdo. I've been around the world, but never find the right girl. You want to call my sugar, you want to call my lover. I mean the right one who can love me for who I am and love for what I got. Caruso Valentino, let's take this music to another level. Oh, eh, oh, eh, oh, oh, eh, oh, eh, eh. ocean, ocean. Me never found a bear. Oh, mommy, daddy. Caruso e Valenziano, saluto Rambo che ce l'ha richiesta sempre qui, vi ricordo i numeri, il 335-56-37-251 per i vostri sms e ancora il nostro sito che vi ricordo il www.crmepiradio.it o ancora lo 0921-92-32-92. Non guardarmi così, che mi fa intimidire, che non riesco nemmeno a parlare, sono fatto a misura per avere paura, ma se voglio ti posso mangiare. Ti ho concesso anche troppo, esco ma torno presto, però stavolta ti prego vai via, vai via. È tutto inutile, così non può girare. Da adesso scelgo me, l'amore non è amore, se ti fa aspettare non ho più niente da perdere. Sei un segno sulla mia pelle, non c'è più niente da prendere, ma neanche niente, niente più da dare. È tutto inutile, così non vado avanti, non serve chiedere. Sembra già scontato quanto siamo stanchi e siamo un mare di cenere che io mi lascio alle spalle. Ho una gran fretta di vivere, non ho più niente, niente da regalare. Scelgo me, scelgo me. Spero di mantenere un rapporto speciale, non la prendere sul personale. Ho bisogno di tempo per trovare il mio senso, che da te io mi devo salvare. Ti amo e ti ho amato troppo, con coraggio lo ammetto, però stavolta ti prego vai via, vai via. È tutto inutile, così non può girare. Da adesso scelgo me, l'amore non è amore, se ti fa aspettare non ho più niente da perdere. Sei un segno sulla mia pelle, non c'è più niente da prendere, ma neanche niente, niente più da dare. È tutto inutile, così, così non vado avanti. Serve chiedere, mi sembra già scontato quanto siamo stanchi e siamo un mare di cenere e io mi lascio alle spalle. Ho una gran fretta, fretta di vivere, non ho più niente, niente da regalare. Non guardarmi così, che mi fa intimidire, che non riesco nemmeno a parlare. Ero fatto a misura. Reduce da due concerti speciali, il 14 maggio a Milano e il 17 maggio a Roma, Marco Carta presenta in anteprima a TGCom il nuovo video Ti Voglio Bene, diretto da Simone Angiulli e tratto dal quarto album Necessità Lunatica. Racconta un pezzo di vita, seppur breve, passato con mia madre, dice Marco. Il video Ti Voglio Bene, ma soprattutto questa canzone, evocano in me momenti belli e non, gioie e dolore. Riesce a far emergere tutto l'amore che ho provato e che provo per lei, che mi ha insegnato le prime cose, i primi passi, che rimarranno per sempre scolpiti nel mio cuore. Marco quest'estate, inoltre il 14 giugno, terrà un altro concerto al Casinò Perla di Nova Gorica. Quindi questo nuovo singolo che troviamo quindi sul questo nuovo video Ti Voglio Bene, che dedica alla sua mamma che è scomparsa quando lui era piccolino e che quindi porta sempre con sé, quindi dedica a lei appunto questo video, questa canzone meravigliosa che naturalmente, se volete andare ad ascoltare, sicuramente vi piacerà come tutte le canzoni di Marco Carta. E noi continuiamo, proseguiamo sempre con la bella musica, 15.49, sempre all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente in mia compagnia fino alle 17. I took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue, and get me waking up, shaking up, tangled up. You could be breaking up, making up, tangled up. You can't be faking it, making it from my love. If all is tragedy, don't get me tangled. I can't separate your sins. To me, you're acting like your twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions coloring the sky to the point it will make me wanna cry and get me waking. Say to both, oh, never mind. And get me waking up. Tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Ognuno ha un peso da portare con sé. Non dirmi che tu non lo sai. Ci pensi e più succede che poi finisce che non.

quindi baciami e portami a ballare. E il nostro il concerto che terrà Alex Britti, beh, sarà il 25 luglio al Central Live for Italico a Roma, quindi aspetteremo con ansia intanto l'uscita dell'album, quindi prevista per l'11 giugno. E poi sarà un piacere ascoltarlo poi dal vivo a partire dal 25 luglio per questo suo concerto. Bella questa canzone, devo dire simpatica, allegra, divertente, appunto dal sapore estivo. Give me your, give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. Pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools gone. I shook the angel and you. I'm rising from the ground, rising up to you, filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Rising from the ground, rising.

senza più paure, mentre di fuori inizia un temporale, mentre di fuori inizia un temporale. E su questa meravigliosa canzone di Modà saluto la nostra Chiara che ce l'ha richiesta, vi ricordo ancora, dal nostro sito che è il www.crmhappyradio.it. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh. Oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Saluto Lucia. Ciao Lucia. Beh, adesso parliamo di, sì, di lavoro, ma in particolar modo di dimissioni dal lavoro. E diciamo fatte da una persona in una maniera un po' strana. Addirittura su una torta, le proprie dimissioni dal lavoro su una torta. Beh, l'ha detto aeroportuale, un certo Chris Holmes, si è licenziato appunto dal suo lavoro in un modo piuttosto insolito, come diceva, appunto con una torta. L'uomo lavorava all'aeroporto di Stantist, vicino Londra, e ha scelto di mandare una torta alla direzione per annunciare quindi le sue dimissioni e motivarle. Il motivo che ha spinto Holmes a questo gesto, diciamo che è presto detto, infatti ha lasciato il lavoro per mettere su un'impresa che fa torte. E oltre che essere stato un gesto simpatico, è stata anche una buona intuizione di marketing, dato che nell'insolita lettera ha inserito anche l'indirizzo del suo sito ed invita anche quindi il management dell'aeroporto a ordinare nuove torte da lui. capito? Quindi fatelo anche voi, sì, come no, visto che oggi il lavoro insomma è un po' un problemone, diciamo, chi ce lo ha se lo tiene un po' postetto. Però l'idea di quest'uomo, che appunto sulla torta, io sto vedendo le immagini insomma di questa torta bella, proprio bella, proprio c'è tutta una lettera scritta, quindi ha fatto due cose, le dimissioni e in più nel frattempo ha mandato questa torta per far conoscere quindi il prodotto automaticamente, quindi poi di venderlo, insomma di avere la possibilità poi di poterlo quindi farlo assaggiare. Visto quante se ne inventano, tante, bravo, continua così. E noi continuiamo, 16:28, sempre rigorosamente in diretta su CRMP Red all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente in mia compagnia. Adesso arriva lui, Cesare Cremonini. Una come te, se chiude gli occhi vede il mare senza andar lontano. Una come te ha una valigia per le scarpe, sembra un aeroplano. Una come te non si avvicina per ballare, guarda da lontano. Una come te se corre inciampa ma non cade, chiede la tua mano. Una come te per una rosa può morire, solo perché ancora non sa togliere le spine. Una come te mi piace da morire. Una come te, un gatto sopra il letto e un uomo nudo ad aspettare. Una come te, spostare. Una come me non la può dimenticare. Una come te, una come te la porti al cinema d'estate, dorme sul finale. Una come te sotto un temporale. Una come te come una rondine d'aprile, vola solo quando ha un orizzonte da inseguire. E una come te mi piace da morire. Una come te sopra il letto, un uomo nudo ad aspettare. Una come te, il vento che le soffia dentro non la può spostare. Una come me non la può dimenticare. Oh, oh, oh, oh. Una come te, un pianoforte senza coda che suona in città, non vuole essere alla moda, la moda la fa. Quattro carte in una sola, si pente, si sposa, ma poi si innamora per sua vita. Chissà se c'è, chissà, ma. E adesso parliamo di coppia, di amori, beh, si sa che ai primi appuntamenti, insomma, si cerca un po' di essere al meglio, di fare colpo, insomma. Beh, succede questo a un ragazzo in Arkansas. Beh, voleva fare colpo su una ragazza con cui era uscito, dimostrando una volta per tutte di essere un tipo coraggioso ed in gamba. Ha messo a punto quindi un piano con l'aiuto di qualche amico che secondo lui doveva aiutarlo a raggiungere lo scopo. Praticamente ha simulato un'aggressione e poi quindi ha scacciato via l'aggressore. Jeffrey, così si chiama il ragazzo, mentre quindi camminava per strada con la sua ragazza di notte, come prevedeva il piano, è arrivato un complice, completamente vestito di nero e con il volto travisato. L'aggressore ha sfoderato un grosso coltello e, rivolgendosi minaccioso a Jeffrey, ha detto: tu puoi andare, però la ragazza resta qui. A questo punto del piano era previsto che, sotto gli occhi della ragazza, paralizzati dal terrore, Jeffrey disarmasse l'aggressore, diciamo, e quindi che poi lo scacciasse. Però le cose non sono andate così. L'aggressore non aveva neppure terminato la sua frase minacciosa che la ragazza se l'era già data a gambe e poi ha chiamato la polizia. Oddio. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato il ragazzo con qualche graffio, ma subito qualcosa è parso strano. Infatti Jeffrey era molto restio a raccontare i particolari dell'aggressione. Poco dopo gli agenti hanno iniziato a sospettare che lui non era estraneo al fatto. Alla fine Jeffrey ha ammesso che la ragazza con cui era uscito gli piaceva veramente molto e aveva quindi avuto l'idea della finta aggressione per far colpo su di lei. Ma le cose però poi non sono andate come si aspettava, quindi ammettendo che non aveva preso in considerazione il fatto che potesse essere coinvolta la polizia. Comunque alla fine gli agenti sono stati comprensivi e hanno rilasciato il ragazzo senza sollevare accuse nei suoi confronti. Cioè, ma si può, dico, si può inventarsi, simulare un'aggressione per far colpo sulla ragazza, per far vedere che si è forti, che si è in gamba, e poi vedi come che succede, poi succedono queste cose. Fortunatamente, diciamo, non è successo nulla di grave, però è intervenuta la polizia, poteva andargli anche peggio, no? Dico, fai colpo su una ragazza essendo te stesso, senza fare e inventarti delle cose. Questo credo che sia la cosa più, insomma, normale che si debba fare. No? Voi che ne pensate? La pensate come me? Beh, fatemelo sapere sempre qui al 335-56-37251 e ancora allo 0921-92-32-92. Gonna walk all over you. Gonna walk all over you. rock all over you. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what our love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're everything. You're every song, and I sing along, 'cause you're my everything. Giorgia, che ce l'ha richiesta. Ciao Giorgia, un bacione grande. Arriva il nuovo di Antonio Maggio, Nonostante Tutto. Se parli tutto. Male, menti. Se parli bene, menti. Lo fai da tempo, ormai ci ho fatto l'abitudine. Non fare più come, menti. Non voglio chiari, menti. Potresti solo peggiorare il quadro clinico. Non c'è modo che io possa accettare questo modo di amare, prevalentemente ascetico. Siamo come carne che è andata male a forza di sorvolare sulle nostre falsità. Ma nonostante tutto, io non voglio perderti, voglio solo illudermi che va tutto bene. Ma nonostante tutto, proverò a difenderci dalle nostre trovo i miei indumenti, lo giuro. loro altri menti. Andremo mano nella mano soli al cinema, tra scuse convenienti e falsi intendi menti. Noi due portiamo avanti questa storia frigida, forse siamo poco inclini ad osare per paura di andare incontro ad una crisi isterica. Nella vita se non provi a rischiare poi continui a sbagliare, non ti raccapezzi più. Ma nonostante tutto io non voglio perderti, voglio solo illudermi che va tutto bene. Ma nonostante tutto proverò a difenderci dalle nostre deboli buone volontà. Tutto, secondo singolo estratto dall'omonimo album di Antonio Maggio, vincitore di Sanremo Giovani 2013. Questa canzone, dice il cantante, per me è un incitamento alla positività, è un aiuto e un invito a tutti per stemperare in minima parte le paure e i problemi dei nostri giorni. L'album è scritto interamente testi e musica da Antonio Maggio, appunto, composto da 10 brani dalle venature electropop, e il disco mette in luce sia la vena brillante e scanzonata del cantautore sia la sua parte più profonda ed intimista. Antonio Maggio è altamente in giro per l'Italia con il suo Nonostante Tutto in tour, e i primi appuntamenti confermati sono il 10 giugno in piazza San Sebastiano a Racale Lecce e il 22 giugno alla Notte Bianca di Salerno. Quindi anche questo è un bel pezzo, devo dire, simpatico come quello, insomma, che poi ha proposto a Sanremo. Bello, mi servirebbe sapere. Anche quello molto carino, molto divertente. E noi ancora continuiamo un po', sempre con la bella musica, ancora qualche minuto da trascorrere insieme a me. Where do we begin? The road. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Oh, how I'm beginning to be an optimist about this. How I'm beginning to be an optimist about this. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Fino all'estasi, Eros Ramazzotti. Abbiamo il tempo ancora di ascoltare un'altra canzone, poi ahimè dovremmo salutarci. Pazienza, torno e come se torno. Hop on the back of my bike, let the good wind blow through. smile so bright. Oh, you're killing me. No, it ain't fair. Yeah. Insieme, naturalmente vi rinnovo l'appuntamento insieme a me, venerdì, sempre a partire dalle 15 sino alle 17, sempre con tanta buona musica, notizie, curiosità e tanto altro. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento con la musica di CRM. E come dico sempre io, fate i bravi, mi raccomando. Baci baci, alla prossima, ciao ciao!